presto, su, Mario, Mario, su, presto, andiam, su, su, Mario, Mario! Ah! Ah! Dico pugnalato! Mario! Mario! Povera donna! Non spunga!